volte va bene, a volte non va. Sempre la stessa storia, che sai già come andrà a finire. Come andrà a finire. Certe volte rifletti, altre volte ripensi alla storia della tua vita, che non sai come andrà a finire. Come andrà a finire. E com'è finita. L'hai presa, consumata e l'hai buttata via. L'hai persa da un giorno all'altro, se n'è andata e non è più tornata. Forse ritornerà, forse ritornerà. L'hai lasciata andare senza fare domande. Non hai pensato a niente, non aveva via d'uscita. A volte un piano B, una vita di riserva, per continuare ancora a viverla come facevi sempre. Come facevi sempre. Se non hai un piano B, passa al piano C, e la tua storia sarà diversa da prima, e sai già come andrà a finire. Come andrà a finire. Forse ritornerà. C'era più. forse ritornerà. Forse ritornerà.